Bene, siamo arrivati a una puntata cruciale del nostro podcast, perché abbiamo fatto tanta fatica per prima progettare e poi implementare il nostro microservizio, e siamo arrivati al punto di renderlo disponibile ai nostri clienti. Giusto. Questa, il passo quindi che dobbiamo affrontare adesso è quello del deploy. Sì, è un passo logico, nel senso che il deploy avviene continuamente durante tutta la fase di sviluppo. Sì. E quindi ci si imbatterà fin dall'inizio. Anzi, in realtà, quando si fa il check-in, la prima cosa proprio è vederlo funzionare uno scheletro applicativo di servizio già sul server. Sì. E io posso dire che innanzitutto le tecniche di base sono le stesse, quelle che si sono sempre usate fino adesso per applicazioni monolitiche. Questo non è cambiato. Quindi mi viene ad esempio a questo punto da citare la continuous integration. Certo. Diciamo, fino ad oggi tipicamente è questa che si applica. Sì. Per la produzione, cioè sì, diciamo che noi, anche noi a Bologna comunque, ma tradizionalmente si è sempre utilizzata l'integrazione continua, che deriva da quel pattern di Fowler dell'anno 2000. Mm-hmm. Che poi si è evoluta nel continuous delivery. Vogliamo un attimo riepilogare cos'è l'integrazione continua? Sì, certamente. Allora, l'integrazione continua prevede, cioè nasce dall'idea di integrare continuamente le modifiche che vengono fatte su un certo progetto software da parte dei vari sviluppatori che ci lavorano. Eh sì. E mentre in precedenza ognuno lavorava alla sua working copy, nella sua macchina, poi uno scelto a caso, qualcuno, diciamo, il più fortunato che rimaneva col cerino in mano, doveva poi preoccuparsi di fare la famosa build. Sì, quando parliamo di integrazione qui intendiamo fare proprio il pacchetto, la build, diciamo. Esatto. Dicevamo, questa persona aveva l'onere e l'onore di fare la build della versione da mettere in produzione piuttosto che test, quello che era. La continuous integration nacque per risolvere tutta una serie di problemi. Sì. Di questo tipo, fornendo uno strumento, una serie di strumenti che permettesse di lavorare integrandosi continuamente sul repository dei sorgenti e fare la build automaticamente del nostro prodotto software. Sì, all'atto pratico ogni commit che veniva effettuato da uno sviluppatore scatenava un'azione da parte di un server, che era il Continuous Integration Server, che non faceva altro che estrarre i sorgenti e le ultime versioni con le ultime modifiche, compilarle lui all'interno della sua macchina. Quindi era necessario che gli sviluppatori avessero committato tutto, non poteva mancare un pezzo, se no non avrebbe funzionato. Poi procedeva a svolgere una batteria di test più o meno complessi di regressione, e alla fine produceva l'artefatto, che era il WAR piuttosto che il JAR o l'AIR, insomma dipende dall'ambiente di sviluppo. Ok, infatti con un numero di versione poi che era lì pronto per... A quel punto era pronto perché qualcuno, dei sistemi, lo prendesse in mano e lo deployasse. Ecco, il passo successivo appunto è il continuous delivery, cioè si è automatizzato anche la consegna in un ambiente che potrebbe essere di sviluppo, di test, di fino a spingersi alla produzione. Direttamente alla produzione, quindi tutto dall'interfaccia web di un server di continuous delivery è possibile seguire tutte le fasi, quindi tutti i test, anche quelli fatti dal controllo di qualità. Quindi intendo dire dei test manuali, non solo automatici, e ognuno dà l'approvazione. Se arrivano tutte le approvazioni, premendo l'ultimo tasto, il bottone grosso rosso, si mette in produzione. E quindi diciamo che queste due tecniche, continuous delivery soprattutto, perché per la filosofia dei microservizi, il team è responsabile anche del deploy, quindi è necessario che sia automatizzato. Questa è una grossa novità rispetto ai metodi tradizionali di sviluppo software. Sì, è vero. Io personalmente, se da un lato in qualità di sviluppatore mi dà ulteriore responsabilità su quello che faccio, un lavoro in più da fare, dall'altro devo dire che mi piace molto, perché per mia esperienza nel corso degli anni questo fatto di preparare un qualsivoglia pacchetto e darlo a qualcun altro per metterlo poi in test, in produzione, quello che è, in realtà ha generato più problemi e fastidi che altro, perché quello che succede tipicamente è che quando qualcosa non funziona, chi l'ha appena messo, sì, sta diciamo, cercando di metterlo in produzione, l'opt che l'ha messo su, insomma, sì, non ha la minima idea di cosa non stia funzionando, perché tante volte il problema nasce da una modifica a livello software, quindi viene aggiunto, che ne so, una dipendenza, un servizio esterno, mi viene il caso più classico. È vero. Io faccio il deploy, non funziona, perché nell'ambiente di produzione non riesco a raggiungere quel servizio che ovviamente non era mai stato chiamato prima, e il punto è che in questi casi poi dopo l'ops rimanda indietro il problema, risale la catena fino poi allo sviluppatore. Sì, perché naturalmente chi si occupa delle macchine non può sapere cosa c'è dentro al pacchetto. Sì. Quello che può vedere è se il pacchetto è su, se sta girando, se da un punto di vista sistemistico tutto funziona, ma il più delle volte il problema è una regressione, oppure è proprio un errore applicativo ex novo. E comunque dicevamo in un altro nostro intervento che quando parlavamo del contesto specifico, diciamo che taglia completamente tutti i livelli e comprende anche la messa in produzione per certi versi, perché così il gruppo è spinto a fare in modo che tutto funzioni bene in modo automatico, perché se sono poi altri che se ne devono occupare, può darsi che il team di sviluppo sia meno attento a automatizzare questo aspetto, diciamo. Tu dici. Ok, quindi è anche per un fatto di abituarsi a vedere funzionare il programma, abituarsi a guardare i log, capire se ad esempio scala male, insomma sono tutti problemi che è bene che li affronti il team di sviluppo stesso. Sono importanti proprio per un buon risultato dell'applicazione. Anche perché problemi in produzione ce ne sono spesso, e negli ambienti microserviti spesso vengono creati ad hoc, come i monkey test di Netflix, che ad esempio ogni giorno spengono un server, tirano giù una rete, insomma fanno apposta a creare degli inciampi per vedere se le applicazioni sono pronte a reagire. Quindi questa cosa lo sviluppatore sa che succederà per certo e si abitua a star dietro al proprio servizio. È il team, è tutto il team che abbraccia per la produzione e segue il servizio. È una cosa anche bella, cioè insomma non dovrebbe essere malaccio. Dal sorgente all'utente. Dal sorgente all'utente può essere lo slogan, sì. Va bene. Dicevamo, abbiamo detto cosa ci ha portato alla continuous delivery. Sì. Ora quello che ti vorrei chiedere è come viene declinata nel caso di un ambiente microservizio. Cambia poco, quindi generalmente si tiene un repository Git per servizio. Sì. Oppure un sottoprogetto Git per servizio. Magari le prime volte che ci si lavora conviene tenere un unico progetto, tutti i servizi in un unico progetto, perché se si è ancora in quella fase di cui parlavamo, per cui stai cercando di definire il tuo contesto specifico, ti può capitare di averlo sbagliato, quindi magari saltare da un progetto all'altro può essere proprio perderci un po' di tempo. Sì. Okay. Però a regime, insomma, quando sei a un buon punto, generalmente c'è un repository per servizi. C'è una pipeline che è servizio, che per... la pipeline la è pipeline un... è il, diciamo, sono la serie di passi del server di continuous delivery, mm-hmm, che provvede a, a lavorare il prodotto, quindi dai sorgenti fino alla messa in produzione. E nella pipeline relativa al servizio, ad ogni servizio, c'è sempre la compilazione, vabbè, a meno che non sia in Ruby, però insomma, la compilazione, si provvede alla creazione dell'immagine Docker, si lanciano i test di unità, di servizio, si fanno i vari deploy per i test automatici e anche per quelli manuali, quelli di accettazione dell'utente. Okay. E poi la catena continua fino a quando i test di accettazione sono andati bene, si può, c'è l'ultimo tasto, dicevamo, con cui mette in produzione. Qui si potrebbe anche parlare di piccoli consigli, insomma, che l'esperienza ci ha portato a, sì, a maturare, a mettere in pratica. Sì. Per... allora, la prima cosa che mi viene in mente è che gli ambienti di test di produzione dovrebbero essere i più simili possibili. Questa cosa, per quanto la si dica da anni, il più delle volte non lo si fa. E purtroppo che cioè, è spesso foriera di problemi, o perché in produzione non è aperta una porta su una rete, insomma, o perché non riesce a collegarsi all'esterno, o per la velocità di funzionamento di certe query che ti fa sbagliare l'impostazione di Istrix, insomma, ci sono diversi motivi per cui dovrebbero essere uguali. Pensa che addirittura i manuali consigliano di tenere al minimo le configurazioni, uh-huh, perché anche la semplice configurazione è un elemento di differenza tra produzione e test. Ad esempio, quando parlo di configurazione, intendo dire, no, il nome con cui ti colleghi al database, la password, quegli elementi che distinguono test, ecco, di tenerli al minimo, perché anche cambiando quello è una cosa diversa. In ambiente microservito, per anche motivi che vedremo tra pochissimo, si tende a non avere un ambiente di test e uno di produzione, ma un ambiente unico in cui girano sia dei pod di test sia dei pod di produzione. Okay, quindi un accesso, diciamo, porta a quelli di test e un accesso porta a quelli di produzione. Cioè, è la stessa pass, sostanzialmente. Sì. Quindi l'ambiente è il medesimo, però... diciamo, il traffico viene convogliato sulla, sì, produzione piuttosto che, sì, sul test, a seconda, sì, della politica. È una cosa che ti ritrovi gratis per uno dei modi di deploy che vedremo tra pochissimo. Uh-huh. Sì, direi che questa è la più importante, sostanzialmente. E per il resto rimane un po' tutto uguale, rimane tutto invariato, diciamo. Test driven development, l'attenzione allo sviluppo è orientata alla produzione di test che poi il server di integrazione continua deve lanciare, resta la stessa, questa non è cambiata. Parlo di test non a caso, sì. Sì, perché in un prossimo cast che faremo parleremo appunto dei test in modo più diffuso. E scopriremo che c'è un tipo di test, il test che si chiama end-to-end, che richiede dei deploy particolari. Cioè, per essere più precisi, per evitare questo tipo di test, che è molto rognoso, hanno inventato delle alternative. Ok. Ok. Queste alternative non vanno intese come non facciamo test e buttiamoci direttamente in produzione. I test si fanno una batteria di test infinita, moltissimi di unità, molti di servizio, i test dell'utente, però il test end to end è molto faticoso, quindi hanno... aiutami a capire il concetto di test end to end. Il test end to end si testa un caso d'uso, ad esempio, sì, l'immatricolazione, direttamente su un sistema funzionante, quindi sull'ambiente di test dove sei stato deployato dal server di continuous delivery, tu fai tutto il percorso, come lo farebbe l'utente proprio da web, e guardi se funziona e alla fine il dato arriva sul DB. Quindi questo automatizzare questo tipo di test, sappiamo che ha tutta, sì, una serie di complicazioni, molto complesso, tant'è che alla fine si arriva generalmente a tenerli in numero limitatissimo, solo per le cose più importanti, proprio quello che ritieni fondamentale. Per esempio, in un negozio elettronico potrebbe essere l'ultima transazione, la più rilevante, non so, nell'ambiente universitario potrebbe essere l'immatricolazione. È proprio un elemento molto piccolo, e hanno inventato dei tipi di test basati su dei deploy diversi. E per quello che ne parliamo oggi, insomma, che ci occupiamo di deploy, e quindi parliamo di questi due tipi di deploy particolari. Quindi adesso tu mi parli di due tecniche per limitare l'utilizzo di test end-to-end, pur senza rinunciare alla fiducia che ci danno i test nei confronti del nostro software. Sì, è un modo che è stato, anche questo è venuto su dalla pratica. Il primo si chiama deploy blue-green, cioè blu-verde. Sì. C'è anche nelle nostre slide, se andate a vedere trovate alla slide numero 5. Sì, trovate una grafica abbastanza esplicita, insomma. Sì. Beh, sembrano delle molecole di acqua. Però allora, come funziona? L'idea in sé è molto semplice, è sempre uscita da Fowler. Martin Fowler. Nel dettaglio, prima ve la spiego, poi vi faccio vedere come si usa invece nei microservizi. Praticamente il bilanciatore che sta davanti, quello che riceve la richiesta dell'utente, stiamo parlando qua di un ambiente di produzione. Quello che riceve la richiesta è stato istruito per dirottare le richieste normali a un sistema che si chiama, diciamo, blu. Mm-hmm. Quindi a tutti quei servizi che sono normalmente in produzione. Le richieste particolari, perché hanno un parametro particolare, mm-hmm, perché arrivano da un IP particolare, perché sono marcate in un certo modo, questo tipo di richieste viaggiano su un sistema che si chiama verde. Ok. Sempre in produzione. Quindi, se voi immaginate la scatola della produzione, della PAS, come contenente tanti pallini che sono i microservizi, la maggior parte di queste palline saranno quelle in produzione. Però a un certo punto io metto dentro una mia pallina nuova, diciamo una pallina verde. Mm-hmm. La pallina verde è chiamata dal router soltanto quando per un chiamante particolare, per un cliente particolare che sta testando direttamente in produzione l'ambiente. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, il concetto mi sembra chiaro. Ci saranno nell'ambiente di produzione delle versioni che non hanno ancora ricevuto, diciamo, il bollino di funzionamento che ufficiale. Coesistono con quelle invece proprio in produzione già da tempo, e è possibile verificare il funzionamento di queste versioni non ancora certificate con dei parametri appositi, con un sistema, in modo tale che il traffico non vada su quelle già in produzione, ma finisca su queste ancora da... Esattamente. La differenza rispetto all'ambiente monolitico è che il router in un ambiente monolitico, il bilanciatore, è soltanto uno. Sì. Nei microservizi ogni chiamata è ribilanciata. Ogni chiamata da un servizio ha una sua dipendenza, è di nuovo bilanciata, e ogni chiamata da un servizio a una sua dipendenza deve riverificare la presenza di questo parametro, e nel caso esista un servizio da testare, dirottarla lì. Mm-hmm. Quindi tecnicamente è un po' impegnativa. Sì. Ok, perché non si tratta di modificare un unico punto. Allora, può sembrare strano, ma diciamo che il test in questo caso non lo stanno facendo gli utenti, il test lo sta facendo uno della QA che entra con questo IP particolare, insomma, mm-hmm, si è marcato in qualche modo e verifica se finisce in questo canale parallelo, usa sia servizi nuovi che il tuo, quello che stai testando, e prova a vedere se funziona. Ok, quali sono i problemi in un ambiente a microservizi di questo tipo di deploy? Prima bisogna individuare la chiamata in un qualche modo, quella da trattare in modo particolare. Sì. Prima avevo fornito alcune tecniche, ce ne sono anche altre. Ad esempio anche all'interno dell'applicazione si può marcare il thread premendo un pulsante. Però insomma sono diverse, bisogna trovare quella che più consona al nostro ambiente. L'altro problema è che stiamo appunto tenendo in produzione cose nuove e cose nuovissime, cioè abbiamo quello che era normalmente in produzione più il nostro servizio. Sì. Questa coesistenza non può durare più di tanto, perché stiamo tenendo lì qualcosa che deve essere messo solo per essere testato e poi rimosso, ok? Uh-huh. Quindi una volta messo su va valutato e una volta che è stato accettato si rimuove. Sulla scorta di questo modello di deploy ce n'è un altro che è ancora più estremo, questo ti piacerà ancora di più, che è il canary release, che spesso è confuso con il blue green. Allora, il blue green era un pattern di Fowler che si adottava anche alle applicazioni monolitiche, c'era solo un bilanciatore davanti. Mm-hmm. Si può utilizzare, però è un po' diverso, anche nei microservizi come l'abbiamo descritto fino adesso. Sì. Ok, è più complesso perché ci sono più interazioni anche tra i vari servizi. Esatto, il canary release è ancora più simpatico, fa la stessa cosa di prima, vuol dire che inietta in un ambiente di produzione anche dei servizi nuovi da testare, ma li lascia lì per più tempo e li fa testare agli utenti finali. Ah, quindi praticamente lo dà in pasto direttamente in pasto all'utente all'inizio con una percentuale bassa, cioè dirotta un numero bassissimo di richieste utente su questo servizio. Ok. Se qualcosa non funziona smette di dirottarle. Il nome mi sembra un chiaro riferimento al canarino delle miniere di carbone. Sì, potrebbe essere. Sì. Cioè, una volta che il canarino è morto, allora diciamo che di lì c'è qualcosa che non funziona. Allora, chi lo fa? Chi ha un traffico enorme? Chi ha un traffico enorme come Amazon, Google? Può permettersi perché lo fai magari in un orario tranquillo, avrà comunque moltissime richieste, ne dirotta una percentuale ridicola e verifica che funzioni. E chiaramente risparmia parecchio in termini di costo per i test. Sì, salti tutto un filone a piedi pari. A prezzo però di dare. Al prezzo, sì. Se parli di grandi numeri, ti dici. Sacrifico un utente ogni 10.000. Sì. Esatto. E poi che cosa succede? Come si implementa? Simile a Blue Green, però hai questo meccanismo che sa che percentuale dirottare. La percentuale, se tutto va bene, aumenta, passa da una percentuale inferiore al punto a una percentuale che arriva al 100%. Mm-hmm. Quando arriva al 100% rimuovi i vecchi, cioè quelli che erano attualmente in produzione. È un modo molto interessante, e che noi implementeremo entrambi nella nostra architettura in Pasqui di Cineca con Epsilon. E basta, direi che questi sono i punti più importanti che dobbiamo sapere sul deploy. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Guarda, io ti ringrazio molto per questo intervento. Certo, niente. Ci hai illustrato cose molto interessanti. E ti piace la canary release più quell'altra? A me molto, mi piace molto la canary release. Perché è proprio bella. È proprio bella perché è di una snellisce in una maniera fantastica dal punto però devi stare lì dietro a controllare. Cioè, sì, non è che non controlli, tu guardi che funzioni, quindi devi avere un sistema di login che ti faccia vedere il log del tuo in particolare. Ma io ti posso dire che questa cosa già andrebbe fatta, perché se tu hai un'applicazione in produzione già devi farlo di stare lì a controllare siano errori, che non, in particolare quando hai rilasciato qualcosa di nuovo. Certo. Quindi si tratta solo di estendere questa buona pratica alla casistica in cui in più aggiungi la verifica di una nuova release solo per una piccola parte dei tuoi utenti, piuttosto che... È vero, e poi bisogna considerare che comunque non sta togliendo tutte le altre test che vedremo in un altro podcast, cioè tutti i test di servizio di unità e fatti dal servizio di qualità, quelli rimangono comunque, non si va in produzione senza quelli, è solo per l'ultima parte, diciamo il test end to end. Vorrei ricordarlo, non è un deploy alla vecchia, cioè l'ho scritto, non l'ho neanche compilato e butto su la cosa. Ecco, non è una cosa così, è un po' diverso. Sì, perché poi il fatto è anche il discorso per cui sono nate queste strategie di deploy, da quanto capisco, è poi proprio quello che i test end-to-end, essendo così costosi, sì, e poi difficoltosi da mantenere tutto quanto, cosa succedeva poi all'atto pratico? Questo. Questo nel senso che non venivano fatti, si buttava in produzione, si butta in produzione una versione per cui ok, ci sono tutti i test di unità, tutto quanto, ma poi manca magari... Certo. Manca il giro particolare. Finale, e quindi dà errore. Qui almeno l'errore impatta in minima, cioè su un numero proprio piccolo e con qualcuno che può rimuoverlo, perché tra lo 0 e l'1%... Tu sei lì che guardi, se vedi l'errore lo chiudi subito, l'utente riprova e non trova più l'errore. Cioè... Sì, tanto da mia esperienza posso dire che metti su una versione che ha un problema, cosa che succede molto raramente, però sì, succede, no? Ti ricordi l'ultima volta che ti è capitato? No, certo. Perché sei passato molto tempo. Certo. Nel momento in cui rilasci una versione che ha un problema, poi il problema esce su... praticamente subito, certo, c'è un po' di traffico, esce subito. Infatti, quindi con questo sistema, quindi cosa succede? Con questo sistema tu blocchi purtroppo l'utente sfortunato che è stato scelto come cavia per il nostro software. Nel vecchio sistema, cioè diciamo senza questa strategia, quello che succedeva in pratica è che li bloccavi tutti, quindi certo. Assolutamente, lo vedo assolutamente come una cosa migliorativa da tanti punti di vista. Bene, vedo che ci siamo dilungati un po', salutiamo e... Ah, ma i nostri ascoltatori sono sempre felicissimi. Ah, beh, bene. Di ascoltare. Ah, grazie anche per tutte le mail e per le ceste che hai visto di là che sono arrivate. Sì, no, guarda, io grazie. Il panettone era buonissimo. Era fantastico, sì. Vi salutiamo, ciao. Ciao, ciao.